Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Il conte era uscito con l'animo straziato da quella casa ove, secondo ogni probabilità, lasciava Mercedes per non rivederla mai più. Dopo la morte del piccolo Edouard, si era operato in lui un grande cambiamento. Giunto al massimo della sua vendetta per il lento e tortuoso declivio che aveva seguito, aveva visto, dall'altra parte della montagna, l'abisso del dubbio. «Io guardo male il passato», disse, «e non posso essermi sbagliato così. Lo scopo che mi ero proposto sarebbe forse insensato. Avrei percorso una falsa strada per 10 anni. Io non posso accettare quest'idea, mi renderebbe pazzo. Ciò che manca ai miei ragionamenti di oggi è l'apprezzamento esatto del passato, perché ora lo rivedo dall'altra parte dell'orizzonte. Infatti, a mano che ci si allontana, il passato, simile al paesaggio attraverso cui si passa, si cancella dalla memoria. Troppi diamanti, troppo oro, troppa felicità si riflettono oggi sul cristallo di questo specchio da cui Montecristo guarda Dantes. Nascondi questi diamanti, imbratta quest'oro, cancella questi raggi. Ricco, ritrova il povero. Libero, ritrova il prigioniero. Resuscitato, ritrova il cadavere. Mormorando queste frasi, Montecristo percorreva la stessa strada per la quale 20 anni prima era stato condotto da una scorta notturna e silenziosa. Discese verso la consegna. Era il punto del porto dove fu imbarcato in ceppi per il castello d'If. Una barca da diporto era a poca distanza. Montecristo chiamò il padrone, che subito remò verso di lui con la sollecitudine di chi percepisce un guadagno insperato. Il tempo era magnifico. Il viaggio fu una festa. Il conte, avvolto nel suo mantello, riviveva ad uno nei loro dettagli tutti i momenti del terribile viaggio. E a poco, come le fontane prosciugate dalla siccità estiva, e che per effetto dell'addensarsi delle nubi autunnali incominciano a inumidirsi e riprendono a stillare acqua, così il conte di Montecristo sentì scaturire goccia a goccia nel suo petto l'antico fiele che aveva un tempo inondato il cuore di Edmond Dantès. Allora per lui non vi fu più cielo limpido, più barche graziose, più luce ardente. Il cielo si velò di nubi e l'apparizione del tetro gigante che si chiama Castello d'If lo fece rabbrividire, come se gli fosse comparso improvvisamente il fantasma di un nemico mortale. «Eccoci giunti!» disse il barcaiolo. Dopo la rivoluzione di luglio non c'erano più prigionieri al Castello d'If. Un picchetto di soldati destinato a impedire il contrabbando presidiava da solo i corpi di guardia. Un custode aspettava i visitatori al portone per mostrare loro quel monumento di terrore divenuto un monumento di curiosità. Eppure, quantunque fosse edotto su tutti quei particolari, quando entrò sotto la volta, quando discese la scala nera e fu condotto al carcere che aveva chiesto di vedere, un freddo pallore gli pervase la fronte e un sudore gelido rifluì fino al cuore. Fu condotto nella sua cella. Montecristo guardò intorno a sé e riconobbe ogni cosa. «Sì, ecco la pietra sulla quale sedevo. Ecco l'impronta delle mie spalle nel muro. Ecco la traccia del sangue che mi colò dalla fronte il giorno in cui volli rompermi la testa contro la parete. Oh, queste cifre me le ricordo. Le feci un giorno che calcolavo l'età di mio padre per sapere se lo avrei rivisto vivo, e l'età di Mercedes per sapere se l'avrei ritrovata libera. Ebbi un barlume di speranza al termine di quel calcolo. Non facevo i conti con la fame e l'infedeltà». E un riso amaro sfuggì dalla bocca del conte. Sull'altra parete del muro un'iscrizione attrasse la sua attenzione. Spiccava ancor bianca sul muro verdastro. «Mio Dio», lesse Montecristo, «conservatemi la memoria». «Oh sì», gridò, «ecco la sola preghiera dei miei ultimi tempi. Non chiedevo più la mia libertà. Chiedevo la memoria. Temevo di diventare pazzo e di dimenticare. Mio Dio, mi avete conservato la memoria. E io mi sono ricordato di tutto. Grazie. Grazie. Mio Dio. «Seguitemi!» disse il guardiano. E senza avere bisogno di tornare verso l'uscita, lo fece proseguire per un corridoio sotterraneo che lo condusse a un'altra cella. Là pure Montecristo fu assalito da una marea di pensieri. La prima cosa che colpì i suoi occhi fu la meridiana tracciata sul muro con cui l'abate Faria contava le ore. Quindi i resti del giaciglio sul quale morì il povero prigioniero. A quella vista, invece delle angosce provate nella sua cella, un dolce e tenero sentimento, un sentimento di riconoscenza, gonfiò il cuore del conte di Montecristo e due grosse lacrime gli sgorgarono dagli occhi. «Qui!» disse il guardiano. «Qui era rinchiuso l'abate pazzo e per di là veniva un giovane a trovarlo!» E mostrò a Montecristo l'apertura rimasta da quella parte spalancata. Dantès tolse alcuni luigi dalla tasca e li porse all'uomo. «Signore», disse la guida, «poiché siete così generoso, meritate che vi offra qualche cosa». «Che cosa hai da offrirmi, amico mio?» «Qualche cosa che ha a che fare con la storia che vi narro. Mi resta una specie di libro, fatto con strisce di tela che trovai esplorando i muri della cella». «Ti resta quel libro?» gridò Montecristo. «Io non so se sia un libro», disse la guida. «Va, amico mio, va a cercarlo», disse il conte. «E se è quello che presumo, sta tranquillo. Corro, signore». E il custode uscì. Allora Montecristo andò a inginocchiarsi pietosamente davanti ai resti di quel giaciglio che la morte aveva trasformato per lui in un altare. «Ah! Mio secondo padre, tu mi hai dato la libertà, il sapere, la ricchezza. Tu che, simile alle creature di spirito superiore al nostro, avevi la scienza del bene e del male. Se dal fondo della tomba resta ancora qualche cosa di noi che si riscuote alla voce di quelli che sono rimasti sulla terra, se nella trasformazione che subisce il cadavere qualche cosa di animato fluttua nei luoghi dove molto abbiamo amato e molto abbiamo sofferto, nobile cuore, spirito superiore, anima santa, con una parola, con un gesto, con una rivelazione qualunque, te ne scongiuro, in nome dell'amore paterno che mi accordasti e del rispetto filiale che ti portavo, toglimi questo residuo di dubbio, perché se non si tramuta in certezza, diventerà rimorso. Il conte abbassò la testa e congiunse le mani. «Prendete, signore!» disse una voce dietro di lui. Montecristo rabbrividì e si voltò. Il custode gli tese quelle strisce di tela su cui l'abate Faria aveva versato tutti i tesori della sua scienza. Quel manoscritto era la grande opera dell'abate Faria sulla monarchia in Italia. Il conte se ne impadronì subito e i suoi occhi, cadendo sull'epigrafe, lessero: «Tu strapperai i denti al drago e calpesterai sotto i tuoi piedi i leoni», ha detto il Signore. «Ah!» gridò. «Ecco la risposta! Grazie, grazie, padre mio, grazie!» E sfilando dalla tasca un piccolo portafoglio che conteneva 10 biglietti da 1.000 franchi ciascuno, «Prendi», disse, «prendi questo portafoglio». «Me lo regalate?» «Sì, ma a condizione di non aprirlo se non dopo la mia partenza». E ponendosi sul petto la reliquia che aveva ritrovato e che per lui valeva quanto il più ricco tesoro, si precipitò fuori del sotterraneo. Risalendo nella barca disse: «A Marsiglia!» Quindi, allontanandosi con gli occhi fissi sulla tetra prigione, «Maledizione a coloro che mi hanno fatto rinchiudere in quel carcere e a coloro che hanno dimenticato che io vi ero rinchiuso». E ripassando davanti al villaggio dei Catalani, il conte si volse e, avvolgendosi nel mantello, mormorò il nome di una donna. La vittoria era completa. Il conte aveva per 2 volte vinto ogni dubbio. Il nome che pronunciò con quell'espressione di tenerezza che tradisce l'amore era il nome di Aide. Posto piede a terra, Montecristo si incamminò verso il cimitero dove ritrovò Morrel, appoggiato ad un albero che fissava la tomba di suo padre con occhi senza sguardo. «Maximilien», gli disse il conte, «il 5 ottobre vi aspetto all'isola di Montecristo. Il 4 uno yacht vi attenderà nel porto di Bastia, si chiama Eurus. Vi presenterete al capitano che vi condurrà da me. Siamo d'accordo? Non è vero, Maximilien?» «Sì, conte. E farò ciò che ho detto. Ma ricordatevi che il 5 ottobre...» «Ragazzo che non sa ancora che cosa sia la promessa di un uomo. Vi ho detto 20 volte che se quel giorno vorrete ancora morire, vi aiuterò io stesso. Addio, Morrel». Thank you. Per un parigino, abituato ai tendaggi di seta, alle pareti tappezzate di velluto, al profumo di legna che brucia nel caminetto e che discende dalle volte rivestite di raso, il risveglio in una grotta calcarea doveva essere come un brutto sogno. Toccando le coperte di pelle di capra, Danglars dovette credere di sognare i Samoiedi o i Lapponi. Ma in simili circostanze bastò un secondo per capire che non stava sognando e che tutto era triste realtà. «Sì, sì», mormorò. «Sono nelle mani dei banditi di cui mi parlò Albert de Morcerf». Per prima cosa respirò con forza per assicurarsi di non essere ferito. «No», pensò, «non mi hanno né ucciso né ferito, ma mi avranno derubato». E si mise subito le mani nelle tasche. Erano intatte. «Che strani banditi!» disse fra sé. «Mi chiederanno un riscatto. Devo sollecitare una spiegazione o aspettare pazientemente che siano loro a decidersi». Quest'ultima alternativa era la più prudente. Trascorsero le ore. Danglars, che soffriva orribili crampi di stomaco, si alzò pian piano, pose il suo occhio sulle fessure della porta e vide un uomo, certo un brigante, che si accingeva a montare la guardia, sedendosi di fronte alla porta e ponendosi fra le gambe una casseruola di terracotta contenente caldi e profumati piselli, cotti in fricassea con il lardo. «Scusate, signore», disse Danglars, «non si dà qualcosa da mangiare anche a me?» «Come? Vostra eccellenza avrebbe fame, per caso?» «Per caso è una parola assurda», mormorò Danglars. «Sono precisamente 24 ore che non mangio». «Ma sì, signore, ho fame, anzi molta fame». «E vostra eccellenza vuole mangiare?» «Subito, se è possibile». «Ah, oh, niente di più facile», disse il brigante. «Qui si può procurare tutto ciò che si desidera, pagando, ben inteso, come si usa presso tutti i buoni cristiani». «Naturale», gridò Danglars. «Quantunque in verità le persone che rapiscono e che imprigionano dovrebbero almeno nutrire i loro prigionieri». «Ah, eccellenza, non è questo l'uso qui. Non è una buona ragione», rispose Danglars, che contava di addolcire il suo guardiano con la sua gentilezza. «Però mi accontenterò. Su, fatemi portare da mangiare». «Subito, eccellenza. Un pollo, va bene?» «Sì, un pollo». Il brigante, che si chiamava Peppino, si voltò e gridò con tutta la forza dei suoi polmoni: «Un pollo per sua eccellenza!» La voce di Peppino vibrava ancora sotto le volte che già compariva un giovane bello, svelto e seminudo, come i portatori di pesce dell'antichità, con il pollo sopra un piatto d'argento tenuto in alto sulla testa. «Sembra di essere al Café de Paris», mormorò Danglars. «Ecco, eccellenza», disse Peppino, prendendo il pollo dalle mani del giovane bandito e posandolo su un tavolo tarlato che costituiva, insieme ad uno sgabello e a un giaciglio di pelli di capra, l'intero mobilio della cella. Danglars prese il coltello con una mano e la forchetta con l'altra e si apprestò a tagliare il volatile. «Scusi, eccellenza», disse Peppino posando una mano sulla spalla del banchiere, «qui si paga prima di mangiare. Si potrebbe non essere soddisfatti uscendo». «Vediamo», disse Danglars. «Ho sempre sentito dire che la vita in Italia costa poco. Un pollo non deve valere più di 12 soldi a Roma». «Eccoti», disse, «un Luigi», e lo gettò a Peppino. Peppino raccolse il Luigi. Danglars avvicinò il coltello al pollo. «Un momento», disse Peppino. «Vostra eccellenza mi deve ancora soltanto 4.999 Luigi». Danglars sgranò gli occhi a quella cifra strabiliante. «Ah, bel tipo in verità», mormorò. E volle rimettersi a tagliare il pollo, ma Peppino gli fermò la mano con la sinistra e tese l'altra mano. «No», disse. «Cosa? Non scherzate», disse Danglars. «Noi non scherziamo mai, eccellenza», riprese Peppino con la serietà di un quacchero. «E con che cosa devo pagare, triplo animale?» disse Danglars esasperato. «Credi forse che si portino 100.000 franchi in tasca?» «Niente di più facile. Avete un credito aperto presso i signori Thompson & French, via dei Banchi a Roma. Datemi un assegno di 4.999 Luigi e il nostro banchiere E già, lo riscuoterà. Da quel momento la vita del disgraziato prigioniero fu un incubo continuo. Dopo 12 giorni, un pomeriggio in cui aveva desinato come nei più bei giorni della sua ricchezza, fece i conti e si accorse di aver dato tante tratte pagabili al portatore che non gli rimanevano più che 50.000 franchi. Allora nacque in lui una strana reazione. Lui, che aveva sperperato 5 milioni, tentò di salvare i 50.000 franchi che gli restavano. Piuttosto che cedere quei 50.000 franchi, decise di imporsi una vita di privazioni. Ebbe lampi di speranza che rasentavano la follia. Lui, che da gran tempo aveva dimenticato Dio, si scoprì dire a se stesso che Dio qualche volta fa dei miracoli. Pregò Dio di conservargli quei 50.000 franchi e, pregando, pianse. 3 giorni passarono così, durante i quali il nome di Dio fu costantemente, se non nel suo cuore, almeno nelle sue labbra. A intervalli aveva istanti di delirio, nei quali credeva di vedere attraverso una finestra una povera camera e un vecchio agonizzante su un giaciglio. Anche quel vecchio moriva di fame. Il quarto giorno non era più uomo, era un cadavere vivente che aveva raccolto per terra perfino le ultime briciole dei suoi pasti e cominciava a rosicchiare la stuoia che ricopriva il pavimento. Allora supplicò Peppino, come si supplica il proprio angelo custode, di dargli qualcosa da mangiare. Gli offrì 1.000 franchi per un tozzo di pane. Peppino non rispose. Nel quinto giorno si trascinò all'entrata della cella. «Ma voi dunque non siete cristiano?» disse raddrizzandosi sui ginocchi. «Volete assassinare un uomo che è vostro fratello davanti a Dio?» E cadde con il viso contro la terra. Quindi, alzandosi con una specie di disperazione, «Il vostro capo! Io voglio parlare con il vostro capo!» «Eccomi!» disse Luigi Vampa comparendo ad un tratto. «Che desiderate?» «Prendete il mio ultimo denaro!» balbettò Danglars tendendo il portafoglio. «E lasciatemi vivere qui, in questa caverna. Non domando più la libertà, ma soltanto di vivere.» «Soffrite dunque molto?» domandò Vampa. «Oh sì, sì, soffro, e crudelmente.» «Eppure vi sono stati uomini che hanno sofferto ben più di voi.» «Non lo credo, è un fatto. Quelli che sono morti di fame.» Danglars pensò a quel vecchio che durante le sue allucinazioni vedeva, attraverso la finestra della sua povera camera gemere nel proprio letto. Batté la fronte per terra mandando un forte gemito. «Sì», disse, «è vero, ci sono molti che hanno sofferto ben più di me, ma almeno quelli erano martiri». «Almeno vi pentite», disse una voce cupa e solenne che fece drizzare i capelli sulla testa di Danglar. Il suo sguardo indebolito cercò di distinguere gli oggetti e vide dietro al bandito un uomo avvolto in un mantello e immerso nell'ombra di un pilastro di pietra. «Di che cosa devo pentirmi?» disse Danglar. «Di tutto il male che avete fatto», disse la stessa voce. «Oh sì, mi pento, mi pento», gridò Danglar, battendosi il petto con lo scarno pugno. «Allora vi perdono», disse l'uomo, gettando via il suo mantello e facendo un passo avanti per esporsi meglio alla luce. «Il conte di Montecristo», disse Danglar, più pallido per il terrore di quanto non fosse un istante prima per la fame e gli stenti. «Sbagliate. Non sono il conte di Montecristo». «E chi siete dunque?» «Sono colui che avete venduto, denunciato, disonorato. Sono colui al quale avete prostituito la fidanzata. Sono colui che avete calpestato per fare fortuna. Sono colui al quale avete fatto morire il padre di fame. Sono colui che vi aveva condannato a morire di fame e che invece vi perdona, perché egli stesso ha bisogno di perdono. Sono Edmond Dantès». Danglar mandò un grido e cadde in ginocchio. «Rialzatevi», disse il conte. «Voi avete salva la vita. Una sorte uguale non è toccata agli altri dei vostri complici. L'uno è pazzo, l'altro è morto. Conservate i 50.000 franchi che vi restano, ve ne faccio dono. Quanto ai 5 milioni rubati agli ospizi, sono già stati restituiti da mano sconosciuta. Ora mangiate e bevete. Questa sera sarete mio ospite. Vampa, quando si sarà ripreso, dategli la libertà». Come il conte aveva ordinato, Danglar fu servito da Vampa, che gli fece portare il miglior vino e i più bei frutti d'Italia, e che, avendolo quindi fatto trasportare nella sua carrozza da posta, lo abbandonò sulla strada appoggiato ad un albero. Vi restò fino allo spuntar del giorno, ignorando dove fosse. Solo allora si accorse di essere vicino ad un ruscello. Aveva sete e si trascinò fino ad esso. Chinandosi per bere, si accorse che i suoi capelli erano divenuti bianchi. Thank you.